Ad alta voce, Tommaso Ragno legge Il conformista di Alberto Moravia. Nona puntata. Ormai era tardi e appena fuori del ministero, Marcello affrettò il passo. Alla fermata dell'autobus si mise in coda, nel mezzo della folla affamata e nervosa del mezzodì, e pazientemente aspettò il suo turno per salire nel carrozzone già affollato. Compì una parte del percorso appeso di fuori sul predellino, poi con molta fatica riuscì ad insinuarsi sulla piattaforma e lì rimase, stretto ad ogni parte da altri passeggeri, mentre l'autobus, sussultando e rombando, si inerpicava dal centro della città su per le strade in salita verso la periferia. Questi disagi però non lo irritavano, anzi, gli parevano utili dal momento che erano condivisi da tanti altri e, sia pure in piccola misura, contribuivano a renderlo simile a tutti. D'altra parte, i contatti con la folla, per quanto sgradevoli e scomodi, gli piacevano e gli parevano sempre preferibili a quelli con gli individui. Dalla folla, come pensò mentre si levava in punta di piedi nella piattaforma per respirare meglio, gli veniva il sentimento confortante di una comunione multiforme che andava dal farsi pigiare dentro un autobus fino all'entusiasmo patriottico delle adunate politiche. Ma dagli individui non gli venivano che dubbi sopra se stesso e sugli altri, come quel mattino durante la sua visita al ministero. Perché, per esempio, pensò ancora subito dopo essersi offerto di abbinare il viaggio di nozze alla missione, egli aveva provato il sentimento penoso di aver compiuto un atto sia di servilità non richiesta, sia di fanatismo ottuso. Perché, si disse, tale offerta era stata fatta a quell'uomo scettico, intrigante e corrotto, a quell'indegno e odioso segretario. Era lui, con la sua sola presenza, che gli aveva ispirato vergogna per un atto come quello, così profondamente spontaneo e disinteressato. E adesso, mentre l'autobus rotolava da una fermata all'altra, egli si rinfrancava dicendosi che tale vergogna non l'avrebbe provata se non si fosse trovato di fronte a un uomo come quello, per cui non esistevano né fedeltà, né dedizione, né sacrificio, bensì soltanto calcoli, prudenza e tornaconto. In realtà, la sua offerta non era scaturita da una speculazione della mente, bensì dall'oscura profondità dell'animo, dimostrazione sicura, oltretutto, del carattere autentico del suo inserimento nella normalità sociale e politica. Un altro, il segretario, per esempio, avrebbe fatto una simile offerta dopo lunghe e furbe riflessioni. Lui invece l'aveva improvvisata. Quanto alla sconvenienza di abbinare il viaggio di nozze alla missione politica, non c'era neanche da perdere tempo a esaminarla. Egli era quello che era, e tutto quello che faceva era giusto che fosse confermato a quello che era. Tra questi pensieri, discese dall'autobus e si avviò per la strada del quartiere impiegatizio sul marciapiede piantato di oleandri bianchi e rosa. I palazzi degli impiegati di Stato, massicci e scalcinati, spalancavano su questo marciapiede i grandi portoni in fondo ai quali si intravedevano vasti e squallidi cortili. Alternate ai portoni si susseguivano le botteghe modeste che Marcello ormai conosceva bene: il tabaccaio, il panettiere, l'erbivendolo, il macellaio, il droghiere. Era il mezzodì e perfino tra quelle fabbriche anonime si rivelava per molti segni la tenue, effimera letizia propria alla sospensione del lavoro e alla riunione familiare. Odori di cucina che venivano dalle finestre socchiuse dei pianterreni, fretta di uomini malvestiti che infilavano quasi di corsa i portoni, qualche voce di radio, qualche suono di grammofono. Da un giardinetto chiuso nella rientranza di uno dei palazzi, la spalliera di rose rampicanti della cancellata salutò il suo passaggio con un'ondata di acuto, polveroso olezzo. Marcello affrettò il passo e al portone numero 19, insieme con altri due o tre impiegati, imitandone non senza compiacimento la fretta, entrò e si avviò su per la scala. Prese a salire lentamente per le rampe larghe in cui un'ombra squallida si alternava alla luce sfarzosa dei finestroni dei pianerottoli. Ma al secondo piano ricordò che aveva dimenticato qualche cosa, i fiori che non mancava mai di portare la fidanzata tutte le volte che era invitato a colazione a casa di lei. Contento di essersene ricordato a tempo, ridiscese di corsa la scala, uscì nella strada e andò direttamente all'angolo del palazzo dove una donna, accovacciata su uno sgabello, esponeva in certi suoi barattoli i fiori di stagione. Scelse in fretta una mezza dozzina di rose, le più belle che la fioraia avesse, lunghe e col gambo dritto, di un rosso cupo, e tenendole al naso e respirandone il profumo, rientrò nel palazzo e salì, questa volta, fino all'ultimo piano. Qui, sul pianerottolo, non si apriva che una sola porta. Una minore scaletta portava più su ad una porticina rustica sotto la quale brillava la luce forte della terrazza. Egli suonò, pensando: «Speriamo che non venga ad aprirmi la madre». La futura suocera gli dimostrava infatti un amore quasi smanioso che li imbarazzava profondamente. Di lì a un momento la porta si aprì e Marcello scorse con sollievo, nell'ombra dell'anticamera, la figura della servetta quasi bambina, infagottata in un grembiule bianco troppo grande per lei, il viso pallido incoronato da un duplice giro di trecce nere. Ella richiuse la porta non senza sporgersi un momento a guardare con curiosità sul pianerottolo e Marcello, respirando a piene narici il forte odore di cucina che riempiva l'aria, passò nel salotto. La finestra del salotto era socchiusa per impedire al caldo e alla luce di entrare, non tanto però che nell'ombra rada non si distinguessero gli scuri mobili in falso stile rinascimento che ingombravano la stanza. Erano mobili pesanti, severi, fittamente scolpiti e formavano un contrasto singolare con i soprammobili, tutti di un gusto civettuolo e scadente disseminati sulle mensole e sul tavolo. Una donnina nuda inginocchiata sull'orlo di un portacenere, un marinaio di maiolica azzurra che suonava la fisarmonica, un gruppo di cani bianchi e neri, due o tre lumi in forma di boccia o di fiore. C'erano molti portaceneri di metallo e di porcellana che in origine, come sapeva, avevano contenuto confetti di nozze di amiche e parenti della sua fidanzata. Le pareti erano tappezzate di una stoffa rossa di finto damasco e paesaggi e nature morte dai vivaci colori incorniciate di nero vi stavano appesi. Marcello sedette sul divano, già ricoperto della foderina estiva, e si guardò intorno con soddisfazione. Era proprio una casa borghese, come rifletté una volta di più, della borghesia più convenzionale e più modesta, in tutto simile ad altre case di quello stesso palazzo, di quello stesso quartiere, e questo era per lui l'aspetto più gradito. La sensazione di trovarsi di fronte a qualche cosa di molto comune, di quasi dozzinale, e però di perfettamente rassicurante. Si accorse di provare a questo pensiero un sentimento quasi abietto di compiacimento per la bruttezza della casa. Egli era cresciuto in una casa bella e di buon gusto e si rendeva conto che tutto quanto adesso lo circondava era brutto, senza rimedio. Ma proprio di questo aveva bisogno, di questa bruttezza così anonima come di un tratto di più che la comunasse ai propri simili. Ricordò che per mancanza di denaro, almeno nei primi anni, loro due, Giulia e lui, dopo sposati, avrebbero dovuto abitare in quella casa e quasi benedisse la povertà. Da solo, seguendo il suo gusto, una casa così brutta e così comune non sarebbe stato capace di metterla su. Presto, dunque, quello sarebbe stato il suo salotto, come la camera da letto di stile Liberty in cui per 30 anni avevano dormito la futura suocera e il suo defunto marito, sarebbe stata la sua camera da letto. E la sala da pranzo di Mogano in cui Giulia e i genitori avevano consumato i pasti 2 volte al giorno per tutta la loro vita sarebbe stata la sua sala da pranzo. Il padre di Giulia era stato funzionario importante in un ministero e quella casa, montata secondo il gusto del tempo della sua giovinezza, era una specie di tempio elevato pateticamente in onore delle divinità gemelle della rispettabilità e della normalità. «Presto», pensò ancora con una gioia quasi ghiotta e lasciva e al tempo stesso triste, «egli si sarebbe inserito di diritto in questa normalità e rispettabilità». La porta si aprì e Giulia entrò impetuosamente parlando nel corridoio con qualcuno, forse con la servetta. Quindi, come ebbe finito di parlare, chiuse la porta e venne in fretta incontro al fidanzato. Giulia, a 20 anni, era formosa come una donna di 30, di una formosità poco fine e quasi popolana, ma fresca e solida, che rivelava insieme l'età giovanile e non si capiva quale illusione e gioia carnale. Era bianchissima di carnagione, con gli occhi grandi, di una limpidezza scura e languida, i capelli castani, folti e ben ondulati, le labbra fiorite e rosse. Marcello, vedendola venir di incontro, vestita di un leggero abito di taglio maschile, nel quale parevano esplodere le forme della persona esuberante, non poté fare a meno di pensare, con rinnovato compiacimento, che sposava proprio una ragazza normale, del tutto comune, molto simile al salotto dal quale poco prima gli era venuto tanto sollievo. E un sollievo simile, quasi un refrigerio, gli venne udendo una volta di più la voce di lei, strascicata, bonaria, dialettale, che diceva: «Ma che belle rose! Perché? Te l'ho già detto che non devi disturbarti, fosse la prima volta che vieni a colazione da noi». Intanto andava ad un vaso azzurro collocato sopra una colonna di marmo giallo in un angolo e vi metteva le rose. «Mi piace portarti dei fiori», disse Marcello. Giulia trasse un sospiro di soddisfazione e si lasciò cadere di sfascio sul divano accanto a lui. Marcello la guardò e notò che un subito impaccio aveva sostituito la impetuosa disinvoltura di un momento prima, segno indubbio di un incipiente turbamento. Poi, ad un tratto, ella si voltò verso di lui e, gettandogli le braccia al collo, gli mormorò: «Baciami». Marcello le circondò con il braccio la vita e la baciò sulla bocca. Giulia era sensuale e in questi baci, quasi sempre richiesti da lei a Marcello, riluttante, veniva sempre il momento che questa sua sensualità si insinuasse aggressivamente, modificando il carattere casto e previsto dei loro rapporti di fidanzati. Anche questa volta, quando le loro labbra stavano già per separarsi, ella ebbe come un soprassalto di vogliosa lascivia e, circondando improvvisamente a Marcello il collo con un braccio, riapplicò con forza la sua bocca su quella di lui. Egli sentì la lingua di lei farsi strada tra le sue labbra e poi muoversi rapidamente, torcendosi e avvolgendosi dentro la sua bocca. Intanto Giulia gli aveva afferrato una mano e se l'era portata al petto, guidandola a farsi stringere la mammella sinistra. Nello stesso tempo soffiava per le narici e sospirava forte con un rumore animalesco, innocente, insaziato. Marcello non era innamorato della fidanzata, ma Giulia gli piaceva e questi abbracci così sensuali non mancavano mai di turbarlo. Tuttavia non si sentiva inclinato a contraccambiare questi trasporti. Voleva che i suoi rapporti con la fidanzata si mantenessero dentro i limiti tradizionali, quasi parendogli che una maggiore intimità avrebbe introdotto di nuovo nella sua vita quel disordine e quella anormalità che si studiava tutto il tempo di scacciare. Così, dopo un poco, staccò la mano dal seno di lei e pian piano la respinse. «Come sei freddo», disse Giulia, tirandosi indietro e guardandolo con un sorriso. «Davvero che qualche volta penserei che tu non mi voglia bene». Marcello disse: «Lo sai che ti voglio bene». Ella proseguì con volubilità: «Sono tanto contenta. Non sono mai stata così felice. A proposito, lo sai che la mamma anche stamattina ha insistito che prendiamo la sua camera da letto? Lei si ritirerà in quella stanzetta in fondo al corridoio. Che ne dici? Dobbiamo accettare?» «Credo», disse Marcello, «che le dispiacerebbe se rifiutassimo». «È quello che penso anch'io. E figurati che quando ero bambina sognavo di dormire un giorno in una camera come quella. Adesso non so se mi piaccia più tanto. A te piace?» E la domandò in tono dubbioso e insieme compiaciuto, come chi tema il giudizio altrui sopra un suo gusto e vorrebbe vederlo approvato. Marcello si affrettò a rispondere: «Mi piace moltissimo, è molto bella». E vide che queste parole destavano in Giulia una soddisfazione visibile. Piena di gioia, ella gli scoccò un bacio sulla guancia e poi continuò: «Ho incontrato stamani la signora Persico e l'ho invitata al ricevimento. Sai che non sapeva che mi sposavo. Mi ha fatto tante domande. Quando gli ho detto chi eri, mi ha detto che conosceva tua madre. L'aveva incontrata al mare qualche anno fa». Marcello non disse nulla. Parlare di sua madre, con cui non viveva da anni e che vedeva raramente, gli riusciva sempre assai sgradevole. Per fortuna, Giulia, senza rendersi conto del suo impaccio, per sola volubilità, cambiò di nuovo argomento. «Ah, a proposito del ricevimento, abbiamo fatto la lista degli invitati. Vuoi vederla?» «Sì, fammela vedere». Ella trasse dalla tasca un foglio di carta e glielo tese. Marcello lo prese e guardò. Era una lunga lista di persone, raggruppate per famiglie, padri, madri, figlie, figli. Gli uomini erano indicati non soltanto col nome e col cognome, ma anche coi titoli professionali: medici, avvocati, ingegneri, professori e, quando li avevano, anche quelli onorifici, commendatori, grandi ufficiali, cavalieri. Accanto a ciascuna famiglia, Giulia, per maggiore sicurezza, aveva scritto il numero delle persone che la componevano: 3, 5, 2, 4. Erano quasi tutti nomi sconosciuti a Marcello e, pur tuttavia, gli sembrò di conoscerli da tempo. Tutte persone della media e piccola borghesia, professionisti e funzionari statali, tutta gente che senza dubbio abitava in case come questa, con salotti come questo, mobili come questi, e aveva figlie da sposare molto simili a Giulia, e le sposava a giovani laureati e impiegati molto simili, come sperava, a lui stesso. Egli esaminò la lunga lista, soffermandosi su certi nomi più caratteristici e più comuni con un compiacimento profondo, seppure tinto della solita fredda e immobile malinconia. «Ma chi è, per esempio, Arcangeli?» non poté fare a meno di domandare a caso. «Commendator Giuseppe Arcangeli, con la moglie Iole, le figlie Silvana e Beatrice, il figlio Dottor Gino?» «Niente, non li conosci. Arcangeli era un amico del povero papà, al ministero». «Dove abita?» «A due passi di qua, in via Porpora. E com'è il suo salotto?» «Ma sai che sei buffo con le tue domande?» ella esclamò ridendo. «Come vuoi che sia? Un salotto come questo e come tanti altri. Perché ti interessa tanto di sapere com'è il salotto di Arcangeli?» «E le figlie sono fidanzate?» «Sì, Beatrice, ma perché? Com'è il fidanzato?» Anche il fidanzato. Ebbene, il fidanzato si chiama con un nome strano, Schirinzi, e lavora nello studio di un notaio». Marcello notò che dalle risposte di Giulia non si poteva arguire in alcun modo come fossero fatti quei suoi invitati. Probabilmente non avevano più carattere nella sua mente di quanto ne avessero sulla carta. Nomi di persone rispettabili, indistinguibili, normali. Egli scorse di nuovo la lista e si fermò a caso sopra un altro nome. «E chi è il dottor Cesare Spadoni con la moglie Livia e il fratello avvocato Tullio?» «È un medico per bambini. La moglie è una mia compagna di scuola, forse l'hai conosciuta, tanto carina, bruna, piccola, pallida, lui è un bel giovane, sono gemelli». «E il cavaliere Luigi Pace con la moglie Teresa e i quattro figli Maurizio, Giovanni, Vittorio, Riccardo?» «Un altro amico del povero papà, i figli sono tutti studenti, Riccardo va ancora al liceo». Marcello capì che era inutile continuare a domandare ragguagli sulle persone iscritte nella lista. Giulia non avrebbe saputo dirgli molto di più di quanto risultava nella lista stessa. E anche se, come pensò, l'avesse informato minutamente sul carattere e la vita di quelle persone, per forza queste informazioni non avrebbero oltrepassato i limiti assai angusti del suo giudizio e della sua intelligenza. Ma si accorse di essere contento, quasi in maniera voluttuosa, sebbene di una voluttà senza gioia, di entrare a far parte, grazie al suo matrimonio, di quella società così comune. Una domanda, tuttavia, gli stava sulla punta della lingua e dopo un momento di esitazione si decise a muoverla. «E dimmi, io rassomiglio ai tuoi invitati?» «Come sarebbe dire? Fisicamente?» «No, volevo sapere se secondo te ho dei punti di somiglianza con loro, nei modi, nell'aspetto, nell'apparenza, insomma, se gli somiglio». «Tu per me sei meglio di tutti», ella rispose impetuosamente. «Ma per il resto sì, Sei una persona come loro, sei distinto, serio, fine. Insomma, si vede che come loro sei una persona per bene. Ma perché mi fai questa domanda? Così, come sei strano. Ella disse guardandolo quasi con curiosità. Tutti vorrebbero essere diversi da tutti e tu invece si direbbe che ci tieni ad essere come tutti. Marcello non disse nulla e le rese la lista osservando a fior di labbra «Comunque non ne conosco neppure uno». «E che credi, che anche io li conosca tutti?» disse Giulia allegramente. «Molti lo sa soltanto la mamma chi sono. Del resto il ricevimento passa presto, un'oretta, e poi non li vedrai mai più». «A me non dispiace vederli», disse Marcello. «Dicevo così per dire. Ora senti il menù dell'albergo e dimmi se ti piace». Giulia cavò di tasca un altro foglio e lesse ad alta voce «Consumato freddo, filetti di sogliola alla mugnaia, pollanca al riso o salsa suprema, insalata di stagione, formaggi assortiti, gelato diplomatico, frutta, caffè e liquori». «Cosa ne dici?» domandò con lo stesso tono dubbioso e compiaciuto che aveva avuto poc'anzi parlando della camera da letto della madre. «Ti pare buono? Ti sembra che mangeranno abbastanza?» «Mi pare buonissimo e abbondante», disse Marcello. Giulia continuò. «Per lo champagne abbiamo scelto champagne italiano. È meno buono di quello francese, ma per brindare va bene lo stesso». Tacque un momento e poi soggiunse con la solita volubilità. «Lo sai che ha detto Don Lattanzi? Che se vuoi sposarti devi comunicarti e se vuoi comunicarti devi confessarti, altrimenti non ci sposa». Per un momento Marcello, sorpreso, non seppe che dire. Non era credente e forse erano 10 anni che non entrava in chiesa. Inoltre era sempre stato convinto di nutrire una decisa antipatia per tutto quanto era ecclesiastico. Ora, invece, si accorgeva con meraviglia che, lungi dall'infastidirlo, quest'idea della confessione e della comunione gli piaceva e l'attraeva. Un po' come gli piacevano e l'attraevano il ricevimento di nozze, quegli invitati che non conosceva, il matrimonio con Giulia e Giulia stessa, così comune e simile a tante altre ragazze. Era un anello di più, come pensò, nella catena di normalità con la quale egli cercava di ancorarsi nelle sabbie infide della vita. E per giunta quest'anello era fatto di un metallo più nobile e resistente degli altri, la religione. Si sorprese quasi di non averci pensato prima e attribuì questa dimenticanza al carattere ovvio e pacifico della religione in cui era nato e alla quale gli era sempre sembrato di appartenere, pur senza praticarla. Disse tuttavia, curiosa di sentire che cosa avrebbe risposto Giulia, «Ma io non sono credente». «E chi lo è?» ella rispose tranquillamente. «Il 90% di coloro che frequentano le chiese pensi che credano, e i preti stessi». «Ma tu ci credi?» Giulia fece un gesto con la mano per aria. «Così e così, fino ad un certo punto. A Don Lattanzi glielo dico ogni tanto, non mi incantate con tutte le vostre storie, voi preti. Ci credo e non ci credo, o meglio», soggiunse con scrupolo, «diciamo che ho una religione tutta mia, diversa da quella dei preti». «Che significa avere una religione propria?» pensò Marcello. Ma sapendo per esperienza che Giulia parlava spesso senza sapere troppo bene quel che si dicesse, non insistette. Disse invece: «Il mio caso è più radicale. Io non credo affatto e non ho alcuna religione». Giulia fece un gesto con la mano, allegro e indifferente. «Ma che ti costa? Vacci lo stesso. A loro preme tanto, a te non costa nulla». «Sì, ma sarò costretto a mentire». «Parole! E poi sarà semmai una bugia a fin di bene. Sai che dice Don Lattanzi? Che bisogna fare certe cose, come se si credesse, ma anche se non si crede. La fede viene dopo». Marcello tacque un momento e poi disse: «Va bene, allora mi confesserò e farò la comunione». E così dicendo, provò di nuovo quel fremito di delizia un po' tetra che poco prima gli aveva ispirato la lista degli invitati. «Allora», soggiunse, «andrò a confessarmi da Don Lattanzi». «Non è mica necessario che vai da lui», disse Giulia. «Puoi andare da qualsiasi confessore in qualsiasi chiesa». «E per la comunione?» «Quella te la impartisce Don Lattanzi il giorno stesso che ci sposiamo. La facciamo insieme. Quanto tempo è che non ti confessi?» «Ma credo che non mi sono confessato da quando ho fatto la prima comunione, a 8 anni», disse Marcello un po' imbarazzato. «Poi mai più». «Pensa!» Ella esclamò con gioia: chissà quanti peccati hai da dichiarare. E se non mi assolvessero? Ti assolvono di certo, ella rispose con affetto, accarezzandogli il viso con una mano. E poi che peccati vuoi avere? Sei buono, di animo gentile, male non ne hai mai fatto a nessuno, ti assolvono subito. È complicato sposarsi, disse Marcello casualmente. A me invece tutte queste complicazioni, questi preparativi piacciono tanto. Dopotutto dobbiamo restare uniti tutta la vita, no? E a proposito, per il viaggio di nozze, che cosa decidiamo? Per la prima volta Marcello avvertì, insieme al solito affetto indulgente e lucido, quasi un sentimento di pietà per Giulia. Capiva che era ancora in tempo a tirarsi indietro e, invece che a Parigi, dove doveva svolgere la missione, andare altrove a trascorrere la luna di miele. Poi al ministero avrebbe detto che declinava l'incarico, ma nello stesso tempo si accorse che questo era impossibile. La missione era forse il passo più fermo, più compromettente e più decisivo sulla via della normalità definitiva. Come erano passi in eguale direzione, ma meno importanti a suo vedere, il matrimonio con Giulia, il ricevimento, le cerimonie religiose, la confessione, la comunione. Non si fermò più che tanto ad analizzare questa riflessione, il cui fondo tetro e quasi sinistro non gli sfuggiva, e rispose in fretta: «Dopotutto ho pensato che potremmo andare a Parigi». Ebbra di gioia, Giulia gli batté le mani. «Bene, Parigi, il mio sogno!» Gli gettò le braccia al collo e lo baciò con furore. «Se tu sapessi come sono contenta, ma non volevo dirtelo che desideravo tanto di andare a Parigi. Temevo che costasse troppo». «Costerà su per giù come gli altri posti», disse Marcello. «Ma non ti preoccupare per il denaro. Per questa volta lo troveremo». Tommaso Ragno ha letto Il conformista di Alberto Moravia. A cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini, Jacopo De Bertoldi, Chiara Valerio. Regia di Luigi Iavarone. Per riascoltare il programma, radio3.rai.it. Per scaricarlo, raiplayradio.it.